la la la la la la la la. Emigrante, era un sueño de amor. Emigrante, con tu nombre en el cuor. Credevo di morir di nostalgia. Volevo ancor baciar la bocca tua e sognavo la ricchezza perché e tornare finalmente da te. Che cosa importa ormai della fortuna se ho perduto il tuo cuor, emigrante d'amor, emigrante d'amor, col tuo nome nel cuor. Che cosa importa ormai della fortuna se ho perduto il tuo cuor, emigrante d'amor, la la.